terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Motorfingers, con voi e con loro ascolteremo, come già detto prima, sei brani del CD Black Mirror, come il primo che è andato in onda. Titolo? Prima del titolo volevo dire che questo pezzo lo dedichiamo al nostro cantante Clay, che purtroppo stasera non è potuto venire dato che per lavoro è direttamente coinvolto in organizzazione degli aiuti per le zone colpite dal terremoto. Il brano che abbiamo ascoltato era In My Dreams. La vostra esperienza durante le incisioni per questo disco e quali le idee che lo hanno formato? Allora, l'esperienza per l'incisione del disco è stata abbastanza calda da tutti i punti di vista, nel senso che noi siamo una band abbastanza live e andare in studio comporta sempre degli sforzi notevoli per noi perché è un modo di lavorare diverso, però è stata molto bella e creativa e ci ha aiutato, ci ha affiatato molto anche. E per quanto riguarda le idee del disco, sono cose che ci vengono fuori un po' in sala prove nei concerti e piano piano ci mettiamo le mani sopra, sperimentiamo, strafichiamo, facciamo di ogni fino a che non pensiamo che ci sia qualcosa di forte, al che decidiamo questo lo finiamo come si deve e lo metteremo forse su un disco, e così è stato per queste 9 tracce. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Dust Over Stone. Dust over the storm, rust through the bone. Sempre con i Motorfingers, recensioni musicali su carta stampata e web, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno apprezzato e segnalato. Allora, ci siamo confrontati un po' con questa realtà nuova per noi, che è il mondo delle recensioni, grazie anche ai ragazzi della Logic Illogic, che fanno da ufficio stampa e promozione e cercano e si sbattono per mandare in giro materiali di band come noi e nostri colleghi che provano a far stile la loro musica. Abbiamo avuto, direi, buoni riscontri un po' dal mondo delle riviste rock e metal, chi più chi meno, però mi piace la recensione che ha fatto Metalhead, dove colpisce e si accomuna anche ad altre recensioni tipo Rock Rebel Magazine, dove ci definisce con un rock molto aggressivo e ogni canzone ha potenza da vendere e un velo di malinconia che la rende unica. Questo credo che sia un po' il centro, il tema di quello che è l'ascolto dell'album, delle 9 tracce, e credo che sia una recensione giusta e azzeccata, positivo, per quello che facciamo, sì. Poi ovviamente c'è anche chi ha che qualcosa da dire non tanto bello, ma ci vuole anche sempre. quello è normale. Prossima canzone? Mad Crime. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i Butterfingers.